Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Cari ascoltatori, un affettuoso saluto da parte di Gesi e di Antonio. Antonio, ormai abbiamo finito quasi anche febbraio. Sta volando anche questo mese, sì. Effettivamente. La prossima domenica saremo già in marzo. Va bene. Dai. Verso la primavera. Ecco. Allora diamo un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. E ricordiamo il nostro indirizzo internet che è bluradioveneto.it. Il numero di telefono per sms, consigli, proposte, lamentele, suggerimenti ed altro è il 346 23 20 033. Ricordiamo sempre che è possibile l'ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione. E senza dimenticare naturalmente il nostro regista. Benissimo, allora stasera avremo un ospite virtuale. Siccome parleremo, andremo nella bassa padovana e quindi ci relazionerà sul paese di Battaglia Terme l'ex bibliotecario della biblioteca comunale, signor Sandon. Non ricordo il nome, ma glielo chiederò poi. Vabbè, allora prima ci ascoltiamo una canzone cantata da Laura Pausini, Io canto. Che si posa alla mattina, le pietre di un sentiero di collina, il falco che si innalzerà, il primo raggio che verrà, la neve che si scioglierà correndo al mare, l'impronta di una testa sul cuscino, i passi lenti e incerti di un bambino, lo sguardo di serenità, la mano che si tenderà, la gioia di chi aspetterà, per questo è quello che verrà. Io canto, le mani in tasca e canto, la voce in festa e canto, la banda in testa e canto. Che non va, l'amore per la mia città, la gente che sorriderà lungo la strada, i rami che si intrecciano nel cielo, un vecchio che cammina tutto solo, l'estate che poi passerà, il grano che maturerà, la mano che lo coglierà, per questo è quello che verrà. Io canto, le mani in tasca, in festa e canto, la banda in testa e canto, io corro nel vento e canto, la vita intera e canto, la primavera e canto, l'ultima sera e canto, io per chi mi ascolterà. Intera e canto, corro nel vento e Eccoci di nuovo in studio e abbiamo in linea il signor Franco Sandon. Buonasera, signor Franco. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Il signor Franco è l'ex bibliotecario della Biblioteca Comunale di Battaglia Terme. Allora, lei, signor Sandon, ci può così parlare del paese di Battaglia? Quindi lei penso ne saprà parecchie cose, tanto anche perché... Sì, sì, so qualcosa ovviamente, non tutto, anche perché poi in biblioteca abbiamo pubblicato dei libri sul paese, quindi ci siamo interessati della sua storia. Bellissimo. Sì, ecco, Battaglia è un paese un po' strano, un po' anomalo rispetto a tanti altri paesi, non solo del Padovano ma anche del Veneto direi, perché è un paese intanto adesso è molto piccolo, circa 4.000 abitanti, e è piccolo anche soprattutto come territorio, perché saranno circa 600 ettari mi pare, quindi è il paese più piccolo della provincia di Padova. Addirittura più piccolo. È il più piccolo, però contando che sono 4.000 abitanti, tutti in un centro unico, in pratica abbiamo una densità pari a Padova quasi. Ho capito. Per abitante, appunto è anomalo già in questo. Diciamo che poi è molto strano perché è un paese che non è mai stato un paese di campagna, non ha mai avuto agricoltura, campi, eccetera. E comunque diciamo che dal punto di vista geografico è ai piedi dei Colli Euganei, dalla parte orientale, verso la laguna per intendersi. E ha una serie di colline che lo circondano dalla parte appunto occidentale, è sulla strada statale per Bologna, che poi continua fino in Puglia, e è sulla numero 16, è sull'autostrada Padova-Bologna, è attraversato dal canale di Battaglia ed è attraversato dalla ferrovia Padova-Bologna, quindi di più si ben, può. Ben attrezzato, diciamo. Sì, dal punto di vista dello scorrimento di traffico di tutti i tipi è ben attrezzato. E poi avete anche le terme, no? A Battaglia. Sì, è uno degli aspetti, perché appunto il paese è nato sul canale, comunque, è nato sul canale attorno al 1200. I carraresi, allora i signori di Padova, hanno deciso di costruire il primo, o se non il primo, uno tra i primissimi canali in Europa. E hanno costruito questo canale che parte da Padova e arriva fino a Monselice, il canale della Battaglia cosiddetto. E nel 1189 è finito pochi anni dopo. E su questo canale è nata Battaglia e nel 1300 poi è nata la parrocchiale, e attorno alla parrocchiale si è sviluppato. Ecco, e lungo questo canale poi naturalmente si è subito intensificato un traffico di merci attraverso le barche, insomma, con le barche. E poi soprattutto, la cosa molto più importante, siccome il canale è alto rispetto alla pianura, è un po' pensile, si è avuta la possibilità di creare un salto d'acqua, per cui proprio a Battaglia, nel centro di Battaglia, si può attraverso appunto questo salto d'acqua raggiungere un altro canale sottostante, il canale Vigenzone, che poi porta in laguna verso Brondolo, il porto di Brondolo, e su questo salto d'acqua è sempre stato sfruttato fin dall'inizio da un'attività industriale. Attività industriale che consisteva soprattutto in mulini, molti mulini, ma molto di proprietari importanti, tipo il Vescovo di Padova, i Carraresi, eccetera. Poi c'era c'era addirittura un frattoio, una segheria. Un museo? E molto più tardi, il museo arriva negli anni adesso, 30 anni fa. Sì. Ecco, quindi diciamo che si è costruito un piccolo polo industriale in quella zona che poi è continuato nei secoli, perché è nata una cartiera importantissima nella Repubblica Veneta, cioè è nata ancora con i Carraresi, è stata poi continuata con la Repubblica Veneta, e quindi fino agli inizi dell'Ottocento è durata questa cartiera molto importante. Per dire, il Petrarca probabilmente ha scritto sulla carta prodotta da a Battaglia, cartiera, dalla cartiera di Battaglia. Naturalmente è stata impiantata da un personaggio che veniva da Fabriano, per dire, insomma, sì, altri che arrivavano da Verona, dove le cartiere avevano già uno sviluppo importante. E poi è continuato questo sviluppo già alla fine del Novecento, alla fine dell'Ottocento. Battaglia è stata la prima ad avere la luce elettrica creata da questo salto d'acqua, prima di Padova, per dire, prima di Este, insomma. È molto importante. E dopo è stata continuata questa tradizione con le officine Rinaldi, poi diventate officine di Battaglia e poi diventate officine elettromeccaniche Galileo, e fino ad occupare nel Novecento, dopo la guerra di Libia, più o meno con la guerra di Libia, c'erano già 500 operai. E diciamo che fino agli anni 70 c'erano oltre 1000 operai, 1200, 1300 anche, e poi tutto è finito negli anni, fine anni 70-80, le officine Galileo hanno subito vari trasferimenti, e dopo tutti questi trasferimenti si è arrivata all'attuale proprietà della Siemens, che occupa pochissime persone ormai, gran parte dei capannoni sono dismessi, e quindi insomma purtroppo c'è una storia di declino. C'è crisi anche lì? Industriale. Sì, beh, Battaglia diciamo che è un paese che è contornato da macerie. Dispiace un po' la parola, ma ecco, per continuare, cioè abbiamo un po' descritto rapidamente il discorso, diciamo, della battaglia industriale, importante perché un paese di 4.000 abitanti con questa fabbrica, ma poi c'erano altre iniziative, c'era un mulino molto importante con 30-40 dipendenti, poi c'era l'attività estrattiva sul Monte delle Croci, anche lì c'erano 200-300 dipendenti, voglio dire era molto attivo in quegli anni. Poi c'è tutto il settore termale. Quello deve essere, penso che dia molto... Lì è un'altra, parliamo di altre cose che hanno subito questo declino incredibile. Allora facciamo una cosa, signor Sandon, lei aspetta un attimo che adesso noi facciamo ascoltare un'altra canzone. Certo. Bene, dopo la riprendiamo. Allora, sicuramente farò felice una persona, la mia cara amica, e ci ascoltiamo I Pooh con Mario Biondi, Ci penserò domani. Strani vestiti, appoggiò le spalle alla porta dicendo con lui ci siamo lasciati. Osservai due occhi segnati e il viso bagnato dalla pioggia. Non so, mi disse, non so come uscirne fuori, non lo so. La guardai ed ebbi un momento di pena perché sembrava smarrita. Io vorrei, mi disse, vorrei che non fosse così, ma è proprio finita. Disse poi, ritrovando un sorriso assento, comunque l'ho voluta. lo sai, le strade per farmi del male non le sbaglio mai. Si calmò guardandosi intorno e parlammo di me, bevendo più volte. Si sdraiò in mezzo ai cuscini e mi disse: con te ero io la più forte. Disse poi, inseguendo un pensiero: è vero, con te io stavo bene. E se io fossi una donna che torna e qui che tornerei. Poi cenammo qui, le chiesi domani cosa fai. La pioggia batteva sui balconi, rispose: ci penserò domani. In inglese la guardai, aveva il telefono in mano e il caffè, e non mi sorprese. Accettai il breve sorriso nel viso di una che non resta. Se puoi, mi disse, se puoi, non cambiare mai da come sei. Passava un tassì, lo prese al volo, abbi cura di te, pensai da solo. Eccoci di nuovo in studio con il signor Sandon per un'altra tranche sulla storia di battaglia. Sì. Eccoci qua. Sì. Allora, dovrei parlare delle terme. Sì. L'altro aspetto del paese. E... sì, anche per le terme si parte da lontano, si parte probabilmente in epoca già romana, e comunque si hanno le prime notizie sul colle di Sant'Elena, che è un piccolo colle ad ovest della ferrovia Padova-Bologna, e di una cinquantina di metri di altezza, quindi una cosa piccolissima, dove appunto si trovavano già i primi bagni, si potevano svolgere i primi bagni e si facevano i primi fanghi, e lì è stata costruita una chiesetta sempre dai carraresi, e importante soprattutto perché sotto al colle c'era una grotta, e questa grotta raggiungeva la temperatura di 50 gradi circa di calore naturalmente. Questa grotta esiste ancora, è in disuso, è nascosta e sconosciuta a tutti, ed è l'unica grotta naturale calda dei Colli Euganei. Ecco, quindi diciamo si parte da lì. Poi le vicende sono sempre varie fino al Medioevo, poi sì, però sempre cose abbastanza trascurabili, non molto conosciute, però già nel 500 credo deve essere stata conosciuta battaglia, se un ospite illustre allora passò la battaglia, ed è Michel de Montaigne, che scrive un paio di pagine nel suo diario di viaggio in Italia su battaglia e proprio su queste terme, e molto più di quello che ha scritto su Padova, insomma, e anche perché lo ha stupito molto il canale di battaglia, lo ha stupito molto poi l'incrocio tra il canale di battaglia e il canale della Paltana, che è un canale che passa lì vicino, per cui c'è questo canale della Paltana che passa sotto il canale di battaglia, costituendo questa una delle due botti di Battaglia Terme. La botte è un ponte canale in pratica, no? Sì, un canale che passa sopra un altro canale. Uh-huh. E poi si è stupito perché sopra a questo secondo canale c'era un ponte. Uh-huh. E lui ha perso una pagina, diciamo, del suo libro per adoperato una pagina del suo libro per descrivere questa strana cosa, e per dire appunto che è passato comunque, insomma, e ha cercato di avere qualche vantaggio dalle acque di Battaglia, proseguendo poi verso la Toscana, verso Lucca, mi pare. E quindi dopo comunque ci sono stati vari interventi fino al 700, in cui è stato costruito un grand hotel proprio sempre sul canale. Questo grand hotel ha funzionato molto bene, tanto per dire anche Stendhal è passato Brahms, sono passati molti personaggi importanti in quel periodo, e diciamo che era molto, molto, molto conosciuto in quel momento Battaglia. Anche Byron è passato. Sì, io adesso non so esattamente, però so che per la zona dei Colli di sicuro. E anche Goethe. E anche Goethe, sì, beh, fino a Padova di sicuro, e poi anche probabilmente so che appunto Byron deve essere stato anche a Este. Comunque non so proprio se abbiano soggiornato nell'albergo, comunque in zona ci sono di sicuro stati. E poi diciamo che questo albergo è passato di proprietà ai conti Zinfen, siamo nell'Ottocento, sì. Austriaci, i quali hanno dato un grande impulso a questa struttura termale, tanto è vero che hanno stampato le prime guide di Battaglia e dei Colli attorno, addirittura in quattro lingue, italiano, francese, inglese, tedesco, e hanno messo Battaglia sulla cartina geografica al centro, che so, fra Londra e Mosca, sì, Berlino, eccetera, e c'era Battaglia, e loro evidentemente avevano delle visioni abbastanza ampie. E poi tutte le vicissitudini della guerra, quindi passaggi di proprietà, e fino ad arrivare ai conti Emo, capo di lista, e i quali erano padroni del Grand Hotel, e come i Zinfen d'antronde, ma anche di questa villa selvatica. Questa villa, credo che è una delle più belle del Veneto. Villa selvatico. C'è adesso, oddio, nel Veneto ce ne sono talmente tante, devono essere 4.000 circa. È una bella, senz'altro, questa villa selvatico, però da noi c'è anche il Cataio, di cui forse potremmo parlare dopo, che è più conosciuto senz'altro di Villa Selvatico. Ecco, quindi era proprietario sia di questo grand hotel che di questa villa selvatico, che era stata costruita proprio sopra questo colle della stupa di cui parlavamo prima, dove si trovano le prime tracce di termalismo. Ecco, quindi il Conte Emo era proprietario di tutta questa zona, e nel 30 l'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale ha deciso di costruire un nuovo albergo lì, quindi hanno demolito il vecchio albergo, il vecchio Grand Hotel, di cui abbiamo anche delle foto bellissime, e delle immagini bellissime, e al posto di questo grand hotel hanno costruito questa nuova struttura stile littorio su una specie di pentagono, proprio come il pentagono, e enorme, un paese in pratica, perché c'erano dai 2 ai 300 dipendenti che lavoravano, e ospitavano dei turni di circa 500 persone ogni 15 giorni per fare le cure, le cosiddette, si chiamano ancora le terme dei lavoratori, nel senso che venivano tutti quelli assistiti dall'INPS a fare le cure a Battaglia, sì. Raccolti diciamo in tutta Italia e mandati a soggiornare lì per 15 giorni. Quindi era un paese quasi autosufficiente, perché c'era l'officina meccanica, c'era la falegnameria, c'era la bottega dei pittori, c'era i sarti, c'era tutto, è tutto organizzato, tutto perfettamente, diciamo, attrezzato. E solo che ha durato fino agli anni 70, anche questo. Poi l'INPS ha dismesso gli alberghi termali che aveva in Italia, che erano 5, tra cui Battaglia. E lo stabilimento di Battaglia è passato alla regione, cioè al 90%, il 10% mi pare al comune di Battaglia, e lì hanno tentato per qualche anno di farlo funzionare ancora, ma non ce l'hanno fatta perché era finito il reclutamento, diciamo, nazionale dei curanti. Bisognava farli venire, bisognava comportarsi come un albergo vero e proprio, non quasi come, tra virgolette, un ospedale, no? Sì, ho capito. E per cui è andato avanti per qualche anno e poi dopo è stato chiuso, e adesso è una delle altre, si è aggiunto alle altre macerie di Battaglia, è abbandonato completamente. Addirittura non c'è più nessuno che viene. Non c'è più nessuno che viene, e ci sono un paio di alberghetti, vabbè, insomma, ci sono altre piccole cose, ma c'è un albergo, in pratica c'è un piccolo albergo termale, poi c'è un centro termale senza comunque possibilità di soggiorno, che è il Contea, si chiama Terme della Contea. E quindi sì, una cosa molto diversa, si va lì, si fa la cura e poi si va a casa o si va in albergo, ma insomma è una cosa molto, molto trascurabile. Quindi la grossa struttura termale di Battaglia è finita ed è abbandonata, è proprio crollante quasi. Non si può riconvertire, naturalmente. Tante idee, ma poca voglia di investire. Anche perché ci vogliono un sacco di soldi, probabilmente. Certo, certo, ci vogliono tanti soldi, però bisogna considerare allora questa struttura, che è inserita in un parco di una ventina di ettari, un parco importantissimo, collegato con Villa Selvatico, che è un gioiello nato nel 600, insomma. Quindi ci saranno turisti che vengono a vedere queste cose? E cosa vengono a vedere? Perché allora adesso l'INPS è stato spogliato di tutto. Esiste il parco, è aperto al pubblico che vuol passare di là, ai battagliensi, eccetera. Però diciamo la struttura è transennata. L'altra struttura collegata con questa, che è le terme di Sant'Elena, sempre dell'INPS, è stata chiusa, e lì c'è la famosa grotta che è stata chiusa. La Villa Selvatico è stata abbandonata dai capodilista negli anni, credo circa negli anni 70, perché si sono trasferiti in parte a Villa Rivella, che è proprio lì al confine di Battaglia. E è stata in degrado fino agli anni 90 forse, poi è stata acquistata da un industriale vicentino, il quale l'ha restaurata, si è dissanguato e adesso è nelle mani della banca e tentano di venderla all'asta, e hanno già tentato per 3-4 volte di venderla, ma nessuno l'acquista. 4 milioni di euro e si può acquistare villa con parco. Perfetto. La interrompo un momento ancora per un'altra canzone e poi facciamo l'ultima tranche che le chiederò un po' come si vive adesso a Battaglia. Sì. Allora, Come pioveva, ci ascoltiamo, ma cantata da Antonio, tu sai l'inglese. Cantata dai Beans. Ecco, che l'hanno ripresa nel 1975. Esatto. Piano. c'eravamo tanto amati, per un anno forse più, c'eravamo poi lasciati, non ricordo come fu, ma una sera ci incontrammo per fatale combinazione, e insieme riparammo, e la pioggia mi portò. Eccoci di nuovo in studio col nostro signor Sandon che ci sta parlando di battaglia in maniera eccezionale. Ecco. Diciamo che è il paese che è un po' strano. Ecco, allora così per puntare su altre cose importanti. Sì. Allora abbiamo parlato dell'industria, abbiamo parlato del termalismo, non abbiamo parlato della navigazione fluviale, importantissimo nodo, battaglia, e basterebbe citare solo la costruzione della conca di navigazione che è stata inaugurata nel 1922 da Benito Mussolini in persona, mm-hmm. perché collegava il canale della Battaglia all'altro canale Vigenzone che portava a Venezia, e comunque tutte le pietre San Marco, le cali veneziane sono costruite con la trachite dei Colli Ugani e tutte partivano e passavano da questo territorio, da questa zona. Ecco, per dire, questo è un settore. Adesso noi abbiamo il Museo della Navigazione Interna, l'unico fluviale, l'unico museo di questo genere in Italia, molto importante, casomai se abbiamo due minuti di tempo ne parliamo dopo. Quindi tutta la navigazione è importantissima. E poi è finita anche quella negli anni 60, purtroppo. Poi le ville, abbiamo citato la Villa Selvatico, però ancora più importante è la Villa del Cataio, forse conosciuta come il Castello del Cataio, una costruzione enorme di quasi 400 stanze, costruita dagli Ubizi nel 600, diciamo, gli Ubizi sono quelli dell'Obice proprio, la famiglia borgognona che è arrivata in Italia e poi si è spersa in varie zone. E dopo questo Cataio è passato di mano, è arrivato fino all'imperatore d'Austria e è passato diciamo all'Italia di nuovo con la guerra del 15-18. Mm-hmm. Ecco, quindi, e qui ci sono opere importanti, era uno scrigno di raccolte d'arte di tutti i tipi che si sono poi disperse perché gli austriaci si sono portati a casa quasi tutto. Nella migliore tradizione. Un nome abbastanza strano, Cataio ricorda Marco Polo o no? Qual è l'origine? No. Qualcuno diceva Cataio, no, invece è probabilmente Ca del Taio. Ca del Taio, ecco. Dove si è tagliato appunto per fare il canale. Insomma. Giustamente, quindi nessuna parentela con nessuna il grande parentela, però ci sta per la suggestione, diciamo, infatti, dell'ambiente. Infatti, fonetica, sì. Sì. Ecco, quindi le ville, poi ci sono queste due importanti, ma ce ne sono tante altre che contornano tutto il territorio. Naturalmente qualcuna un po' in piedi, altre purtroppo molto, molto in decadenza. Ma c'eri anche quella? Purtroppo è così, è un territorio che ha delle ricchezze immense e sempre al passato, utilizzate tutte da persone, diciamo, extra territorio, perché questi interventi sono tutti di grandi famiglie o personaggi o enti che arrivano, costruiscono, fanno con naturalmente qualche locale che li attira e poi basta, finito, e peccato perché appunto le risorse comunque rimangono. Battaglia è, per dire, l'anomalia, è un paese in cui il ricambio demografico con gente che viene da fuori è stato già da subito molto forte. Basta pensare alla navigazione, perché appunto tutti i barcari evidentemente venivano da tutte le zone della pianura padana o dal basso Veneto, insomma, quindi o dal Po o da Chioggia o dall'Adige, quindi tutta gente che viene da fuori. E lo stesso per il Cataio, gli Obizzi, poi è stato dei Modena, quindi famiglie che arrivavano da Modena, da Reggio Emilia, eccetera. Cioè c'è sempre per la fabbrica la stessa cosa, per l'INPS la stessa cosa, diciamo, c'è sempre stato un grande ricambio, quindi il paese da questo punto di vista è molto vivo, è come un quartiere, diciamo, di una città, sì. Però diciamo che le risorse economiche sono sparite, sono sparite, quindi la gente, certo, lavora fuori, insomma. Certo, perché se non ci sono più neanche le terme, sì, che secondo me era abbastanza un... Diciamo che però Battaglia non ha avuto mai molto, proprio per la sua ristrettezza di territorio, non ha mai avuto grandi iniziative. C'era questa grossa iniziativa delle terme dei lavoratori, poi attorno si sono costruite a Galzignano una zona termale e poi soprattutto a Montegrotto e ad Abano, dove gli alberghi oltre un centinaio. Lì c'è abbastanza. Sì, anche troppo purtroppo si è costruito e adesso lo si vede, perché la risorsa è stata sfruttata in maniera eccessiva e adesso, vabbè, lasciamo stare. Tutto per i soldi. Sì. E comunque queste cose sì, bisogna saperle anche organizzare nel tempo. Certo. Ecco, comunque sì, Battaglia ha avuto solo in pratica questa grossa iniziativa che gli ha permesso di aggiungere terme al suo nome precedente. Lei doveva parlare di una cosa, che se avevamo due minuti di tempo. Ah, sì, niente, di questo museo della navigazione fluviale. Ecco, sì, questo è un barcarolo che la... Sì, diciamo che almeno questa è una cosa nuova. Ah, bene. E che magari da lì speriamo possa ripartire un po' il paese. Perché negli anni 70, fine degli anni 70, si è fatta una mostra sulla navigazione interna, fluviale. Ci siamo accorti che una volta i canali e i fiumi nel Veneto erano navigatissimi, ci si muoveva più in barca che a piedi sulla terra, e questo è verissimo, d'altronde, insomma, Venezia ce lo insegna. Eh beh, certo, sì. Ecco, quindi ci siamo accorti di questo, è stata fatta questa mostra e dopo questa mostra è stato pensato di non buttare via tutto, ma di raccogliere ancora materiale e istituire un museo per ricordare tutta la navigazione interna, la navigazione soprattutto quindi della Valle Padana, che so, da Pavia in giù, da Milano in giù, fino al Sile, fino a Trieste. Perché appunto la navigazione una volta era così, si arrivava fino a Trieste, anche da Battaglia, e poi giù fino al Po. E si è deciso di raccogliere questo materiale, è stata trovata una sede, è stato aperto questo museo, tutta opera, gran parte, diciamo l'anima di questo museo è questo Barcaro, ex barcaro, sì, che sì, si chiama Riccardo Cappellozza, sì, e che, diciamo, impersona la navigazione fluviale, perché lui è la navigazione, lui è una barca che si muove, conosce tutto, è molto, pur avendo lui ormai più di 80 anni, però ha in testa tutto, dai termini alle tecniche, ai ricordi naturalmente, a tutti i percorsi fatti, ai materiali trasportati, è veramente una miniera e ha lavorato in maniera egregia. Ecco, questo è... Sì, e ancora lavora lui, cioè... Lui tiene ancora aperto, il museo. In pratica è aperto perché c'è lui ancora, che fa anche da guida. Quest'anno, o meglio nel 2012, abbiamo avuto dei contatti con gli altri musei della navigazione fluviale europei, inglesi, spagnoli, francesi, tedeschi, sloveni, olandesi, e abbiamo fatto anche addirittura un paio di giornate di lavoro, una a Battaglia e una a Venezia, per trovare il modo di collegarsi e di avere anche, diciamo, degli aiuti comuni da parte di Bruxelles, insomma. Ho capito. Ecco. Bene, bene. Comunque, adesso come si vive a Battaglia, così, insomma? Ma diciamo che si vive bene dal punto di vista, sì, della collocazione, perché appunto l'aria dei colli è molto diversa da quella della pianura. Sicuramente. Non abbiamo parlato di questa piccola fetta di colli che interessa Battaglia, che è splendida perché è piena di vegetazione mediterranea, molto ben esposta al sole, è molto caratteristica, molto anche conosciuta, sono delle passeggiate splendide. Ecco, comunque, dal punto di vista così geografico, territoriale, si sta bene, si vive bene, ci sono i servizi, anche se in declino anche quelli, ferrovie, SITA, eccetera. Purtroppo, sì, sì. Purtroppo, vero, è l'Italia che è così. Purtroppo. Sì. Comunque, signor Sandon, noi la ringraziamo perché ha fatto un'esposizione stupenda, veramente chiara, bella, bella. Che esauriente. E la ringraziamo veramente di cuore. Niente. Grazie a voi. Non so se... qualche volta sarà disponibile per qualche altra cosa. Va bene. Va bene? Sì, d'accordo. Grazie, signor Sandon. Grazie e buona serata. Buonasera. Bene, ringraziamo ancora il signor Sandon, che veramente è stato eccezionale. E ci ascoltiamo la quarta canzone in programma, che è intitolata L'ultimo amico va via. Romana. L'ultimo amico va via, domani se va a sposare, se gioca la libertà, pure lui, per vecchio gruppo ondo sta. Me li so persi così, se sono scordati di me, tanto amici e poi ti è. Ogni cosa se ne va, finisce il ciclo te ne dà, domani chiude il bar intorno alla via. Quanta nostalgia mi viene, si penso quando tutti noi, se giocavamo a carte qualche bottiglia. Te saluto gioventù, te ne sei andata pure tu, adesso a me che mi rimane più. Insieme a lui l'allegria, ci resto soltanto io a pensare che ho da fare. Cosa se ne va, finisce il ciclo dell'età, domani chiude il bar in fondo alla via. Quanta nostalgia mi viene, si penso a quando tutti noi se giocavamo a carte qualche bottiglia. Te saluto gioventù, te ne sei andata pure tu, adesso a me che mi rimane più. Eccoci di nuovo in studio e adesso il nostro Antonio ci leggerà qualcosina della Mariuccia Baraldo, che è una nostra cara amica di Padova e che forse ci ascolterà. E la canzone di prima era cantata da Franco Califano ed era una canzone in dialetto romanesco. A te Antonio. Allora, da Cante, Conte e Tiritere, Fiabe e Fole, Panda Edizioni Padova. L'incipit, proprio il primo, la prima spiegazione. Io naturalmente con il padovano a poca dimestichezza cercherò di renderlo abbastanza accettabile da trevisano. Cante, conte, tiritere, foe, fiabe e preghiere putine, tutto il Veneto minuto per minuto. Voglio, con questa mia testimonianza, rivangare nella memoria di un passato che non viene mai menzionato nella cultura orale, soprattutto un co che è anche scritta, che ha stane e parole usane e di lavoro, roba da tutti i giorni e no frutto de frasi in gringoia che non si smoia mai da consuetudine di riportare vita, morte e miracoli di tutti i santi del paradiso, da San Martin a Pasqua, Nadae, Epifania, scolta snobando quello che de più genuin è un fiantin boaroto se confronta al nostro vivere giornaliero e che rischia di perdersi perché andà in desmentega. Me scuso se nell'esprimermi go usà qualche parola non proprio lavaco per lana, ma è ora non che gera che lì sia. Quello che ho scritto desde tutto genuin, passà pal tamiso e tramandà come oro colato, pesà con una baianza che non asse andare niente fora dal piatto. Mariuccia. Salutiamo la nostra cara Mariuccia e facciamo tanti auguri per la sua salute. Esatto, e allora con una poesia dedicata da Maria Luisa Scarpa. Bondì, caro diaeto. Nell'aria serena se sente pian pian un fia da lontan na mamma cantare a nana al suo ben. Un eco più ciara dei canti infantili risuona nell'aria da tanti cortii. Sto canto non stran, non sei in italian, ma in quel bel idioma sì caro e dieto che dappertutto si chiama diaeto. I tuoi sentimenti vien fora più scetti e i bei discorsi più gusto i ga. Anche i baruffe più forza e ciapa se se con die col salde a tosciata. Ma adesso che i fioi in paraga al foresto purtroppo sparisse sto caro linguaggio. Cambia co parole di più alto lignaggio piene de bota e de tanti cioè, ma che iassa più vodi de quello che isè. Bella sta poesia. E salutiamo anche la Maria Luisa, che è una poetessa veneziana. Naturalmente. Brava, sì. Poi avremmo La vita e il suo stagion, per concludere. Sì. È un brano, diciamo, di spiegazione. L'area socioambientale è quella della Bassa Padana, in particolare il circondario de Monsese. Se necessaria sta sernita per il motivo che da paese a paese cambia usanze e costumanze, per la differenza del linguaggio di aetae che rivea cadenze, intonazione e impostazione de voce e ancora pal sistema e diversità de vita. A principiare stagione dell'anno, ghemo a primavera, a dare il via a stagione de vita, che è l'infanzia. Cante e conte dei tempi andai, non uso il termine folklore, perché non se nostran e viene dall'Inghilterra, usa ancora ne a metà dell'Ottocento, che vuol dire cultura del popolo, ma che spesso ga tradio il significato originale. Mi preferisco parlare di cultura contadina, che ancò partagnersi in bon il la chiama cultura orale, distinta anche se non proprio separà da quello che si intende per cultura popolare. ed o definizione e significa sempre la stessa roba. Me metto nel contesto del discorso con ricerche su testi che a volte faccio mie, tanto sono in sintonia con quel che leso, e più delle volte tolgo in esame intuizione e considerazione che non credo sbaglia, perché non le me vien dall'alto della cattedra, filtrata mie interpretazioni diverse, fatte a tavolin, mentre l'eventuale documentazione non è più in circolo o peso a sesanda persa. Semo a cavallo, fine di un secolo, gli unici depositari di tanta ricchezza a se trova tra i vecchi confinai nelle case di riposo, grande supermercato desta cultura. A mia origine contadina me ga insegna a rispettare la cultura orale e considerare quella scritta come alfidenza, perché, come da documenti, disebbe i nostri vecchi, governo ladro, piove, per fin de piova il gera tenu responsabile tra altre disgrazie e il governo, le quai lese tutte scritte, scominciando dalle tasse a cartolina de precetto, al boletin matrimoniale. Senza perdere di vista l'epitafio, poi finiva sempre col dire «carta pena che è amaro, e i te conta e pai entel paiaro». Ricordemose che i nostri vecchi si devono considerare libri viventi de sta cultura, conservane a memoria collettiva. Per ogni vecchio che muore è un tocco d'archivio che va brusà. È vero. Per questa ragione l'uomo è l'unico essere sulla terra a vivere più o manco oltre 30 anni dopo il periodo fecondo, perché da mieni si tramanda qua parola, dita e ripetua da una generazione a st'altra, usi, costumi, religion e esperienze sull'agricoltura. Ancò se ga tutto lo versà, a natura se in mande a tecnica che ne insegna a sfruttare qualità e quantità, tutto, tanto, beo e subito, passando de sora ai cicli naturali della vita. Ma attenti, a natura no assetoe de soia, se no vuoi che presto o tardi agapia da vendicarsi. È vero, sono cose verissime. E siamo arrivati? E siamo arrivati nel senso che questa è una considerazione che volevo fare. La giunta regionale del Veneto ha incaricato un panel di esperti praticamente per una moratoria sulla costruzione e per la salvaguardia del territorio. Sì. Diciamo che siamo qualche decennio in ritardo, anche perché, se non ricordo male, in una trasmissione chiamata Un'ora con Mazzotti, che si trova su YouTube, Incontri 1972, Beppi Mazzotti, straordinario personaggio, sì, e salvatore delle vine venete, sì, sì, con Andrea Zanzotto, Totti Dal Monte e Walter Balliana, discettavano nel 1972 di devastazione del territorio. E noi siamo qui 40 anni dopo aver devastato il territorio a cercare faticosamente una via d'uscita. Quindi avevano visto... I poeti, un poeta andrebbe bene al Ministero delle Attività, certo, Produttive. Avevano visto nel chiaramente futuro, non un tecnico, un poeta. Il poeta ha la vista molto più lunga. Sì. E qui noi purtroppo siamo sempre estremamente miopi, non riusciamo a capire quali sono le cose importanti. Speriamo che si fermi qui, insomma, sto degrado. Speriamo di riuscire a fare una conversione a U e ritornare. Diciamo. Conversione a U sarà un po' difficile per ma adesso. Ma almeno rinsavire e ritornare un pochino alla nostra. Perché... E andiamo, diciamo, con l'ultima canzone. Bene, direi. Allora andiamo con l'ultima canzone, che è cantata da Marisa Fiordaliso ed è Oramai. A parte il fatto che ti voglio ancora bene, ho maledetto orgoglio da difendere, e pensa che figura ci fare cercarti io. Magari penseresti che mi sto arrendendo, è vero, com'è vero che con te oramai non basta. Sarebbe come fare del male in più a uno di noi due che non sei tu. Oramai cielo si è strappato su di noi. Raccogli le mie stelle, le offro io. E strappo come un calendario i giorni della vita, tra vecchi amici e solitudine, ho perso l'abitudine di te, parola mia. E litigo ogni tanto con la nostalgia, se è lei che vince sono affari miei, ma oh. E tu lo sai, sarebbe come fare del male in più. A uno di noi due che non sei tu. Eccoci di nuovo in studio, ormai abbiamo pochi minuti. Volevo dire appunto che abbiamo scoperto un'altra ascoltatrice di Marghera Mestre, quelle parti lì, e quindi per noi è sempre un motivo di gioia, vero Antonio? Naturalmente, oltre agli amici che ci ascoltano anche dal molto più lontano, se vogliamo, via internet, e questi sono amici tecnologici che ci danno grande soddisfazione, perché che cosa significa? Che non è vero che gli adulti non sappiano usare la tecnologia o non siano curiosi di tecnologia. Si parla di digital divide, cioè della incapacità o della scarsa capacità da parte degli adulti di utilizzare la tecnologia, le tecnologie informatiche, eccetera. Esiste, e non so se l'ho detto ma lo ribadisco eventualmente, esiste un memory divide, cioè un divario di memoria che una persona adulta o anziana, eccetera, non ha handicap nei confronti dei giovani che sanno smanettare. In questo caso ha un grande vantaggio, perché non per loro colpa, ma i giovani non hanno un bagaglio di esperienze come quella che abbiamo noi. E quindi che anche questo mitizzare la tecnologia è un qualcosa che non ha significato, cioè tutto è opportuno, questi sono nuovi strumenti importanti, eccetera, ma non va mai dimenticato il passato, perché certo, altrimenti ritorniamo agli errori che abbiamo compiuto a IOSA finora. Io sono del parere che occorra rinsavire, dopo i decenni di consumismo esasperato, eccetera, questa crisi ci sta portando probabilmente a una resipiscenza, come si dice, fare un atto di un esame di coscienza e guardare entro noi stessi per capire che non c'è il vuoto dentro noi stessi, come noi temiamo, perché abbiamo sempre bisogno di questo frastuono esasperato, eccetera. Ma insomma, quella volta ci dà fastidio. Il frastuono serve per evitare di pensare. In realtà, pensare e guardare dentro di noi ci farebbe scoprire la ricchezza che abbiamo, certo, entro, che ciascuno ha entro se stesso. Io volevo farti una domanda. Tu hai tenuto un corso di informatica. Sì, tutta gente giovane o anche persone anziane? Anche anziani, anche notevolmente anziani, anche ultra settantenni e compagnia, con una grande capacità di, una grande volontà di mettersi in gioco. Molto interessante. Sì, ci vuole, motivazione e umiltà, naturalmente, e curiosità. Queste sono le cose. Anche perché la tecnologia a me piace, insomma. È una cosa estremamente interessante. Vabbè, allora Antonio, salutiamo tutti quanti. Alla prossima volta. Alla prossima domenica. E come sempre vi dico ciao ciao.